cento fanni intorno, fossero sempre il giorno, o mille mille fuori in sei, o mille mille fuori in sei. C'è un punto e fremo, fossero sempre il giorno, fossero sempre il giorno, o cento fanni intorno, o cento fanni intorno, o mille fuori in sei. Cento e cento affanni, o cento affanni intorno, cento, fremo, o mille mille fuori in sé, o mille mille fuori in sé. Cento affanni intorno, o mille fuori in sé, o cento e cento.